2024 2024 di Enrico Pagliarini. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta, per partecipare al telefono con la vostra voce alla nostra trasmissione, 824 0024. Oggi c'è Rosa pronta per rispondere alle vostre chiamate. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Carmelo Lauricella che si occupa della parte tecnica, Alessandro Balia in redazione. Dunque, avete sentito gli argomenti di cui ci occuperemo questa settimana, in questa puntata. Non ci sono tante notizie, ce ne sono poche importanti, ma il numero di notizie, soprattutto che arrivano da oltreoceano, ci sono dei dibattiti, potremmo definirli molto locali, ma poche notizie internazionali. Nella seconda parte parleremo di cloud computing, una, alcuni la definiscono moda, non è solo una moda, è una rivoluzione, o meglio, una evoluzione tecnologica, e ne parleremo nella seconda parte con una serie di ospiti. Iniziamo invece dalla fibra ottica. Sapete che esiste un dibattito in corso da anni per cercare nuove strade per diffondere in generale internet, da un lato per colmare il cosiddetto digital divide, dall'altro, ma questa è una cosa che va vista nel medio e lungo periodo, per costruire una nuova rete in fibra ottica, il famoso Next Generation Network, il network di prossima generazione. Ce ne occupiamo spesso 2024 perché riteniamo questa essere una delle priorità del paese. Oggi partiamo da un'idea, anche potremmo dire provocatoria, di Asso Provider, che dice: cari cittadini, paghiamoci e diventiamo proprietari del primo miglio, del pezzo di cavo che collega in fibra il nostro appartamento con la rete internet. Dino Bortolotto è il presidente di Asso Provider. L'idea è molto semplice: perché non acquistare la proprietà di quel pezzo di connettività che è di pertinenza della propria abitazione? Come compriamo le automobili oltre che affittarle, come compriamo le lavatrici oltre che affittarle, perché non comprare, invece che soltanto affittare, la parte definita tecnicamente local loop, quella che viene utilizzata dall'utente finale per connettersi alla prima centrale di commutazione. Il famoso ultimo miglio. Il famosissimo ultimo miglio. Esatto. Naturalmente stiamo parlando del futuro, quindi non stiamo parlando dell'attuale rete, cioè parliamo di un investimento che andrebbe fatto nel momento in cui viene costruita, se non tutta una nuova rete nazionale, ma la possiamo considerare anche una somma di tante reti locali, quindi diciamo che possiamo anche ragionare su scala modulare, quindi piccole aree che contribuiscono alla creazione di questa rete. Assolutamente sì, perché il paradigma di internet ci ha insegnato come una grande rete possa essere costruita per somma interconnessione di tante piccole reti, quindi perché non incominciare a considerare che l'intera infrastruttura di comunicazione possa essere realizzata per mezzo di tanti piccoli contributi. Questa idea poi nel concreto, innanzitutto, la si può realizzare già oggi o è un'idea, diciamo, che mettiamo a disposizione del dibattito per il futuro, per i prossimi anni? Allora, diciamo che è tutte e due le cose, nel senso che stiamo parlando di qualcosa di estremamente semplice, perché stiamo parlando della parte passiva. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei tubi e del mezzo trasmissivo da mettere nei tubi, qualcosa che quindi è molto semplice, che conosciamo dall'epoca dei romani, che si fanno i cavidotti, che si fanno le strutture di questo tipo qui. E questa è la parte semplice, e la parte meno semplice è la struttura normativa italiana, per cui realizzare fisicamente queste cose sarebbe semplicissimo. Il costo, se invece che essere raggruppato in un unico soggetto, non è più di decine di miliardi di euro, ma diventa di poche centinaia di euro per ogni soggetto. Quello che va leggermente modificato, ed è stato oggetto della nostra lettera aperta al precedente Ministro dello Sviluppo Economico, l'onorevole Romani, è quello di andare a modificare alcuni elementi, nella fattispecie l'allegato 10 del codice delle comunicazioni italiane. Senza entrare in dettagli tecnici, poi naturalmente immagino che questa lettera verrà riproposta anche all'attuale governo, o ad un'eventuale cosa che noi sosteniamo, sottosegretario responsabile alla digitalizzazione, all'innovazione, all'agenda digitale, eccetera, eccetera, che non è solo banda larga, ma adesso stiamo parlando di fibra ottica e di banda larga. Voi avete anche quantificato, così, un'idea, abbozzato un'idea di costo di investimento per ogni appartamento, quanto sarebbe? Allora, per unità immobiliare, ma non solo noi, diversi studi da diverse fonti più o meno convergono che la parte passiva costa mediamente intorno ai 500 euro ad unità, ma è un calcolo che si può fare molto velocemente prendendo le stime di quanto costa l'intera rete. Le stime sono di 10-12 miliardi di euro, lo si divide per il numero di utenze 20 milioni e guarda caso riviene fuori questa stessa identica cifra. Quindi circa 500 euro ad appartamento. Io in cambio che cosa avrei? In cambio lei avrebbe il controllo, il possesso, la proprietà della fibra e avrebbe, per così dire, associata solo alla sua unità immobiliare e avrebbe, per così dire, una proprietà condivisa con tutti gli altri che condividono con lei il cavidotto all'interno del quale vengono convogliate le fibre di tutta una zona geograficamente contigua, cioè tutti coloro i quali insistono su una stessa via, su uno stesso quartiere, sì. Lei qua tocca un aspetto importante, interessante, che tocca anche poi la semplicità della proposta, che poi non so quanto semplice sia, cioè lei ci sta dicendo anche che per fare una cosa del genere, ma del resto è il progetto di trasformazione della rete da rame a fibra, prevede che si passi a questa nuova tecnologia in blocchi, non è che può passare un'abitazione in un palazzo, giusto? Certo, esattamente. Ecco, però a questo punto non gioco quelle cifre, ma vuol dire che un solo soggetto che stesse a qualche chilometro di distanza e fosse lui solo che deve fare quel tragitto, vorrebbe dire che lui da solo si sobbarca l'intero costo del cavidotto più la fibra e allora non sono più 500 euro. Sono alcune migliaia di euro. Esattamente, tanto per dare un'idea agli ascoltatori, un chilometro di cavidotto costa dai 25 ai 35 mila euro. Okay. Nuovo. C'è anche da dire che bisognerebbe tentare di fare un riuso, non come nel software, ma qui si tratterebbe di fare un riuso fisico, della fisicità, perché i cavidotti utilizzabili nelle nostre strade ci sarebbero, è che bisogna scoprire dove sono, in che stato sono. Certo, bisognerebbe anche che i comuni si dessero una svegliata perché dovrebbero prevedere, intanto una mappatura, poi tutte le volte che viene fatta un'opera pubblica dovrebbero prevedere che ci possa passare la fibra, che ci sia spazio perché passi, ma qua stiamo parlando insomma di un mondo un po' addormentato da un certo punto di vista, ma anche per le case, diciamo. È una cosa che facevano i romani, non si capisce perché non potremmo farla noi, cioè non è che stiamo parlando di chissà quale tecnologia spaziale, di chissà quale organizzazione sia necessaria, è la normale organizzazione necessaria per strutturare, per fare l'urbanizzazione di un quartiere. Esatto. Parlando di quello. Senta, lei diceva è una cosa semplice, in realtà però se questo investimento lo fanno le aziende di telecomunicazioni o lo fa lo Stato, ma dubito che lo possa fare perché non ha soldi, lei dice lo possono fare i cittadini, ma forse a questo punto la cosa più difficile è mettere d'accordo i cittadini. Sì, però ancora una volta la pubblica amministrazione potrebbe giocare il suo ruolo, quella per cui nasce ed esiste, che è quella di mediare interessi di tutti quanti. È chiaro che magari ci sarà qualcuno a cui non interessa minimamente, ma io ricordo, perché ho una certa età, quando nell'abitazione dove abitavo con i miei genitori passò e arrivò l'acquedotto, l'acqua corrente, perché prima la prendevamo dal pozzo l'acqua. Ed è chiaro che noi avremmo potuto dire, abbiamo il pozzo, che ci importa di avere l'aggancio all'acquedotto, ma lì fu fatta, e non solo nel nostro comune, ma in tanti altri comuni d'Italia, fu fatta una precisa politica e disposizione da parte dei comuni. Senta, immagino che si possa attuare il medesimo meccanismo per una cosa che è altrettanto importante, che è l'acqua potabile corrente all'interno delle abitazioni. Per quale motivo questo investimento sull'ultimo miglio non lo dovrebbe fare la società di telecomunicazioni o le società di telecomunicazioni o addirittura lo Stato? Perché i cittadini dovrebbero investire. Uno potrebbe dire perché se no non lo fa nessun altro. Questa potrebbe essere una prima giustificazione. È un ottimo motivo, perché è quello che sta accadendo da 3 anni a questa parte. Ecco, però ci sono degli altri motivi? Ce n'è uno che per me è importante, poi anche qui magari è opinabile, ed è la libertà. Il controllo dell'ultimo miglio da parte dell'utente finale gli dà una capacità e una mobilità notevole. Innanzitutto viene completamente disarmato il problema dell'incumbent e del monopolio, e dà al cittadino la possibilità di fare il cambio operatore secondo la sua volontà e secondo i suoi tempi, perché nel momento in cui io posseggo il mio local loop, la mia fibra, chiamo l'operatore XYZ e gli dico: vai in centrale sul permutatore, la posizione KK è la mia, agganciala al tuo dispositivo di commutazione e siamo immediatamente operativi. Dopodomani mi gira di cambiare operatore, chiamo quello nuovo e gli dico di cambiare la posizione. Quindi quello che oggi molti di noi vedono come un percorso tragico, cambio operatore, diventerebbe un'operazione istantanea e priva di qualsiasi problema, oltre ad avere la possibilità di un controllo significativo della rete. Ci sono dei soggetti in giro per il mondo che stanno parlando ampiamente di questa possibilità e parlano di un passaggio di internet da internet per tutti a internet di tutti. Cioè che il controllo, che non solo siamo degli utenti delle possibilità e delle potenzialità di internet, ma noi siamo coloro i quali posseggono internet. Va detto che uno dei vantaggi di questo investimento sarebbe anche quello di avere, molto probabilmente, non è sicuro perché essendo un'idea poi bisogna mettersi d'accordo sulle regole da seguire, comunque sarebbe anche quella di avere un canone di collegamento ad internet più basso. Naturalmente io investo, una parte dell'infrastruttura è mia e quindi il costo del servizio sarebbe più basso, e questo permetterebbe di recuperare i soldi investiti in pochi anni. E se fate un po' di conti vedete che il costo di internet, questo vale un più o meno per tutta Europa, poi ci sono alcuni esempi, alcuni portano alcuni esempi, ma se fate la media il costo in Italia non è molto distante, ma in generale è ancora un costo piuttosto importante ed elevato. Ci sono vari motivi che ci fanno approvare questa idea, questa proposta, che è fatta propria da Asso Provider, ma è nata anche in altri ambiti, anche a livello internazionale. Uno, lo abbiamo ripetuto, visto che attualmente tutto è bloccato, poi vedremo anche il nuovo governo che cosa farà. Uno dei motivi per cui spingere verso questa direzione è anche quello di velocizzare i tempi. A proposito di territorio, questa cosa è probabilmente più facile da far accadere in un territorio limitato, un paese, una piccola cittadina, piuttosto che a livello nazionale, dove bisogna mettere d'accordo tanti soggetti e i tempi si allungherebbero. Allora mi faccia capire, domattina, se in un quartiere o in un piccolo paese tutti i cittadini si mettessero d'accordo, oppure la pubblica amministrazione riuscisse a far mettere d'accordo tutti i cittadini o la maggior parte dei cittadini, si potrebbe già fare? La risposta è certamente sì, ed è un ritorno alla territorialità, alla decisione del territorio di infrastrutturarsi. Potrebbero farlo perché nel momento in cui un certo numero di cittadini si raggruppa e costituisce un unico punto di accesso per un certo numero di utenze, magari per gli operatori grossissimi non ricopre ancora interesse, ma per gli operatori delle dimensioni che sono rappresentati in Asso Provider, assolutamente sì. Cioè poter in un solo punto servire un centinaio di utenti diventa un qualcosa di estremamente interessante, e che per i modelli di business dei nostri associati assolutamente non a fallimento di mercato. Bene, abbiamo lanciato un sasso nello stagno e sicuramente torneremo su questo tema, ma in generale sul tema legato alla diffusione di internet, che, come dicevo, da un lato prevede la riduzione del digital divide, dall'altro prevede questo progetto per costruire una rete di prossima generazione. Dunque, questa settimana c'è stata una sentenza storica della Corte, alcuni la definiscono storica, della Corte di Giustizia Europea. Sostanzialmente la Corte dice: i giudici non possono imporre alle società che forniscono accesso ad internet di applicare filtri per prevenire il download di contenuti illegali. Innocenzo Genna è membro del Consiglio dell'Associazione Europea degli Internet Service Provider. È molto positiva anche perché chiarisce la posizione degli Internet Service Provider, che erano ingiustamente parti coinvolte in questo tipo di processo, perché gli Internet Service Provider non sono né detentori di diritti d'autore né pirati, cioè sono semplicemente mezzi, sono quelli che forniscono le piattaforme, i livelli di comunicazione per la trasmissione dei dati, e in base alla normativa europea hanno l'obbligo di non controllare che cosa è scambiato nelle reti di telecomunicazioni, appunto per non interferire nel traffico e per non andare a violare i diritti alla privacy o dei propri utenti, mentre invece quello che veniva chiesto dall'attore di questa causa, dalla SABAM, che sarebbe la CIA belga, era quello di imporre agli ISP un obbligo di controllare sistematicamente il traffico trasmesso in internet per scoprire gli eventuali pirati online. La Corte di Giustizia ha affermato che gli ISP devono essere tirati fuori da questa questione, perché non possono essere costretti a filtrare il traffico per vari motivi, perché c'è già un obbligo di non filtraggio esistente nella direttiva commercio elettronico, perché il filtro comunque violerebbe il diritto alla privacy degli utenti, violerebbe la libertà di espressione degli utenti, perché il filtro avrebbe come conseguenza anche il blocco di determinate comunicazioni che sono libertà di espressione. Inoltre il filtro avrebbe un costo disproporzionato e sarebbe una struttura complicata rispetto all'obiettivo che si vuole perseguire. Infatti la Corte dice che il diritto di proprietà intellettuale è un diritto importante, ma non è inviolabile, deve essere contemperato con una serie di altri interessi che vi ho appena elencato. Questa è una sentenza importante anche perché non è l'unico caso, comunque non è la prima volta che se non formalmente i detentori di diritti chiedono o comunque cercano di imporre, di far sì che i provider diventino un po' degli sceriffi che quindi controllino che cosa gira in rete, giusto? Sì, c'è tantissima giurisprudenza, ma questa sentenza è la più importante di tutto perché ha una portata costituzionale, è una sentenza che non è appellabile ed ha prevalenza su tutte le legislazioni e le sentenze di tutti i paesi membri della UE. Quindi qualsiasi cosa attualmente in corso in un Parlamento nazionale o in un processo davanti a un giudice, tutti si dovranno adeguare ai principi che sono stabiliti da questa sentenza. Possiamo dire che avrà conseguenze anche sulla regolamentazione o sulla legislazione vera e propria che verrà fatta a livello europeo nei prossimi mesi o anni? Sì, perché la Commissione europea da qui a 2 anni deve analizzare e in parte riscrivere alcune cornici legislative molto importanti riguardante lo sviluppo dei contenuti online, quindi la musica online, i video, l'IPTV, il video on demand, e inoltre lo status del funzionamento della normativa sul commercio elettronico e poi le procedure per combattere la pirateria. Ora, la Commissione chiaramente attendeva questa sentenza per capire da che parte andare. Ecco, Genna, ricordiamo comunque che scambiare file in modo illegale su internet rimane pur sempre un reato. È chiaro che comunque la pirateria resta, a seconda dei casi, un illecito amministrativo o penale, e che quindi i pirati possono essere perseguiti ai sensi di legge. Però, al fine di reprimere questi fatti, la polizia e i giudici non potranno imporre agli ISP, agli Internet Service Provider, quindi da Alice a Fastweb e Battiscali, di filtrare tutto il traffico dei loro utenti per capire quello che stanno facendo. Quindi il diritto alla privacy e alla libertà di comunicazione da adesso è maggiormente tutelato. I detentori di diritti, cioè le grandi televisioni o le grandi major americane, hanno comunque la possibilità di perseguire i pirati, ma con modalità meno intrusive. Molti sono stati i commenti positivi a questa sentenza, ad esempio Confindustria Digitale ha detto che la pirateria si combatte soprattutto promuovendo e ampliando le modalità di accesso al mercato legale dei contenuti online. Sono d'accordissimo e infatti, ma questo lo diciamo già da un po' di tempo, bisognerebbe chiedersi perché in Italia non ci sono le condizioni affinché arrivino servizi come ad esempio Netflix, che vi ricordo è un servizio che negli Stati Uniti permette di vedere film illimitati a $8 al mese. Non so se mi sono spiegato. Oppure ad esempio Spotify, musica illimitata con un servizio che può essere gratis, oppure $5 o $10 al mese. Anche di questo dovrebbe occuparsi il nuovo governo e più in generale di quella che viene definita agenda digitale. Anche per questo, a 2024, ma in generale anche a Radio 24, sosteniamo che si debba nominare un sottosegretario con questa delega precisa, perché la tecnologia in generale è un elemento moltiplicatore per tutte, sia le imprese che la pubblica amministrazione, e ne abbiamo sicuramente molto bisogno. Abbiamo una notizia prima delle informazioni di GR24. L'Authority per le comunicazioni si riunirà il 30 novembre per esaminare la delibera che prevede la possibilità di cambiare operatore telefonico sia fisso che mobile in un solo giorno, mantenendo lo stesso numero di telefono. La GCOM potrebbe quindi adottare un nuovo regolamento che risponde alla direttiva europea, anche se il pacchetto Telecom europeo non è ancora stato recepito dall'Italia e siamo in ritardo. E proprio per tirare le orecchie all'Italia, la Commissione europea ha scritto pochi giorni fa, ed è la seconda volta che lo fa quest'anno, per sollecitare l'adozione di questo pacchetto Telecom, che prevede, tra l'altro, ci sono moltissime cose, tra l'altro la possibilità di cambiare appunto operatore telefonico in un giorno solo, maggiore chiarezza sulle offerte e anche maggiore protezione dei dati. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, tra poco parleremo di cloud computing, uno dei grandi temi. Allora vi invito a proporre le vostre domande sia via SMS al 349-238-6666, sia via email al nostro indirizzo 2024@radio24.it, oppure Facebook nella nostra pagina che abbiamo aperta su Facebook, o ancora meglio al nostro numero verde 800 24 00 24. Vi aspettiamo tra poco con i nostri ospiti, nel frattempo le notizie di GR24 e anche, se tutto va bene, la partenza di una sonda della NASA diretta a Marte tra pochissimi minuti. 2024, seconda parte di 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 800 24 00 24. Nel frattempo, mentre ascoltavamo le notizie lette da Carlo Gente all'interno di GR24, la sonda Curiosity, la missione Mars Science Laboratory americana della NASA, è partita alla volta di Marte da Cape Canaveral. È una missione costata $2.5 miliardi, ha una vita operativa stimata di 2 anni. La sonda dovrebbe arrivare su Marte nell'agosto prossimo, nell'agosto 2012, e la missione principale sarà quella di ricercare tracce di vita passata sul pianeta rosso. È sempre affascinante vedere questi strumenti che partono e arrivano dopo tanti mesi su un pianeta così lontano. Ma su internet trovate molte informazioni, naturalmente sul sito della NASA vedrete anche il lancio. La sonda è stata lanciata con un lanciatore Atlas 5 molto affidabile della Boeing. Sono le 16:08 minuti, bentornati a 2024. In questa seconda parte parliamo di cloud computing. Questo è un tema, un nome che avrete sicuramente sentito molto spesso. Va anche di moda parlare di cloud computing, ma non è solo una moda, è anche una esigenza, una possibilità che ci viene messa a disposizione dalla tecnologia, dalla diffusione della rete. Per partecipare al nostro programma anche con la vostra voce, vi ricordo, come vi dicevo poco fa, il nostro numero verde 800 24 00 24, oppure se volete potete inviarci un SMS 349 238 6666, o partecipare alla nostra discussione su Facebook. Ci sono molti messaggi sul primo tema. Molti sono preoccupati della manutenzione della fibra di questo progetto, di questa idea che abbiamo presentato nella prima parte. Ma adesso appunto voltiamo pagina. Saluto Edmondo Orlotti, che è con me in questo studio. Lavora ad Nvidia, che è uno dei grandi player del mondo della grafica. Bentornato a 2024. Grazie, buon pomeriggio Enrico e buon pomeriggio agli ascoltatori. Tu ti occupi di tecnicamente di un settore molto particolare, che poi ha a che fare con la vita di tutti i giorni, ovvero, adesso lo dico come va detto, poi lo spieghiamo, HPC, High Performance Computing, cioè grandi data center che anche grazie ai chip grafici fanno dei calcoli molto complicati. Più o meno così? Sì, hai centrato quello che è il mio lavoro. Ecco, che cosa c'entra col cloud computing? Ma in realtà io mi occupo di tecnologie che vanno nei data center, quindi i data center sono l'elemento fondamentale per il funzionamento del cloud computing. Cloud computing è una parola appunto abbastanza abusata, serve per descrivere l'insieme delle tecnologie che consentono di trasferire i dati e le applicazioni all'interno dei data center, quindi lontano dall'utilizzatore, e l'utilizzatore accede a questi data center attraverso le connessioni di rete da qualsiasi dispositivo. Esatto. Diciamo subito che cloud in inglese significa nuvola, quindi l'idea è quella di dire oggi siamo abituati ad avere i nostri dati e soprattutto le applicazioni, poi su questo spieghiamo meglio, sul nostro computer oppure su computer che sono vicini a noi, magari in azienda. L'idea del cloud è dire internet va inteso come una nuvola un po' confusa e i tuoi dati sono all'interno di questa nuvola anche lontano, e tra l'altro una delle cose che poi anche qua possiamo approfondire: questi dati non sappiamo di preciso dove sono, anche perché ci interessa poco. Ci interessa poco saperlo. Di fatto utilizzare un servizio cloud significa rivolgersi a un fornitore esterno e utilizzare le applicazioni e i dati che servono appunto all'interno della propria azienda, utilizzarli sulla piattaforma fornita da un fornitore esterno. I vantaggi sono molteplici, a partire dal fatto che, avendo un fornitore esterno che mi gestisce il tutto, io tolgo la complessità dell'infrastruttura tecnologica all'interno della mia azienda. Esatto. Dunque, volevo specificare subito una cosa. Il cloud computing non è fare il backup dei dati, cioè non si tratta solamente di spostare i dati dal mio computer al computer di un grande fornitore di servizio, che già mi risolve una serie di cose, però non è solo questo. No, il cloud computing appunto possiamo vederlo in particolare come, se pensiamo alle nostre applicazioni da ufficio, quelle con cui scriviamo, i fogli elettronici eccetera, noi normalmente le abbiamo installate sul nostro computer. Nel cloud computing queste applicazioni, l'applicazione stessa non è installata sul nostro computer. Io ci accedo attraverso solitamente un browser che mi consente quindi di aprire l'applicazione, aprire i miei dati, e io mentre sto lavorando in realtà sto lavorando come se fossi su un computer che appunto sta nella nuvola lontano da me. Questo ha il primo vantaggio di non dover quindi installare le applicazioni sul mio terminale. Il che significa anche che io definisco tutte le mie configurazioni, le mie combinazioni con cui sono abituato a lavorare, e però queste combinazioni io le posso ritrovare se mi collego da un terminale pubblico, da un terminale a casa, dal terminale che ho in ufficio, senza dover riconfigurare ogni volta ogni singolo terminale. Abbiamo fatto un esempio in cui crede molto Google. Allora, saluto Stefano Maruzzi, che è Country Manager di Google Italia. Bentornato Maruzzi. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Abbiamo fatto l'esempio delle applicazioni da ufficio. Questo è un primo esempio di cloud computing che voi già da tempo avete cominciato ad offrire, e che mi pare voi crediate sia una delle proposte per far entrare il cloud nel mondo non solo delle aziende. Sì, perché il vantaggio, come è stato appena descritto, è notevole. Oltre alla comodità dettata dall'avere sempre disponibili i propri dati, informazioni di qualsiasi genere, non si pensi soltanto a testo ma anche ovviamente a cose molto più voluminose come potrebbero essere dei video, e andando avanti ovviamente anche il singolo utente farà sempre più riferimento a delle informazioni prodotte sotto forma di video, Due sono le osservazioni di fondo da fare, che ognuno di noi ha accesso a internet attraverso molti dispositivi, dallo smartphone al tablet a uno o più computer, e quindi appunto far risiedere i propri dati e le informazioni su cui si sta lavorando in un posto accessibile facilmente in qualsiasi condizione da parte di diversi dispositivi è di una comunità assoluta. E in più il secondo aspetto è la collaborazione, che sia una piccola azienda o un singolo imprenditore oppure una larga organizzazione, è evidente come sempre di più ci sia l'esigenza di collaborare con altre persone nella redazione di un documento, nella stesura di un business plan, quindi di un foglio elettronico e via di questo passo. Avere accesso non solo ai dati ma anche a delle applicazioni che consentono di lavorare in maniera collaborativa, un'esigenza sempre più crescente da parte di molti. Per quanto vi riguarda, questo è un business o è un modo per fare business su altre cose, ad esempio la pubblicità, che è uno dei vostri business, che è il vostro business principale? Sì. La pubblicità è e continua a essere il business principale di Google. Questa è una linea di business con caratteristiche abbastanza differenti dal resto delle attività dell'azienda, proprio perché ci rivolgiamo a un ampio spettro di interlocutori, però ovviamente di taglio business. I servizi che sono disponibili a ciascuno di noi come consumatori in modalità totalmente gratuita, nell'ambito di un'offerta più di tipo enterprise, invece hanno dei service level agreement più sofisticati, rispondono a tutta una serie di direttive in termini di sicurezza e di protezione dei dati, e in quanto tale per noi sono un business, anche se direi alla Google, nel senso che gli importi che vengono richiesti per poter accedere a tutta un'intera suite di prodotti di produttività individuale e di quella che diciamo office automation è molto basso. Sì, poi magari facciamo anche un esempio, non tanto dei prezzi ma dei servizi, o comunque di entrambe le cose. Voglio solo sottolineare che il Service Level Agreement, SLA, gli SLA, se uno è un esperto del settore è una parola come il pane quotidiano quasi, è una sorta di contratto, di accordo che mi dà una serie di garanzie che il servizio funzioni. È scritto, firmato, e quindi chi me lo offre deve mantenere le promesse. 2024. Riprendiamo questa seconda parte di 2024, è dedicata al cloud computing. Vi ricordo il nostro numero verde, tra 15-20 minuti cominceremo ad ascoltare anche la voce dei nostri ascoltatori. Il numero verde è 800-24-0024, oppure se volete partecipare anche su Facebook, ma io preferisco sempre sentire la vostra voce. Stiamo parlando di una rivoluzione, o meglio di una evoluzione, che serve di più, è più dedicata alle imprese o avrà un impatto forte anche sul mondo dei consumatori? Forse sui consumatori l'ha già quasi avuto. Ma in realtà diciamo che, come succede spesso, il primo impatto l'ha avuto proprio sul consumatore, cioè sull'individuo, alla cui intraprendenza si deve il fatto di adottare tecnologie nuove in maniera molto veloce. In realtà questa trasformazione ha un impatto che in questo caso mi sentirei di dire proprio dirompente anche nei confronti delle aziende, perché consente alle aziende di concentrarsi su quello che è il loro settore di attività e lasciare la complessità dell'infrastruttura informatica al di fuori dell'azienda. Quindi l'impatto è notevole per entrambi. Diciamo che se guardiamo al consumatore, buona parte delle cose, anzi forse tutte le cose che facciamo, potremmo farle solo con il navigatore, col browser. Esattamente, sì. Quindi quello è cloud computing. Sì, quello di fatto già lo è. Enrico Trovati, che è responsabile marketing business di Telecom Italia, benvenuto. A proposito di aziende, voi avete lanciato quella che avete chiamato Nuvola Italiana, perché avete tradotto il termine cloud, e quindi vi rivolgete in modo particolare alle aziende, cioè voi pensate e ritenete che ci sia uno spazio di business soprattutto in Italia. Assolutamente. Col concetto appunto di Nuvola Italiana, che ormai da oltre un anno e mezzo stiamo portando sul mercato, stiamo appunto cercando di portare il mondo del cloud computing alle imprese di ogni dimensione, quindi partendo dai grandissimi clienti alle piccole e medie imprese, e lo pensiamo di portare con alcuni elementi propri, come dire, anche del tessuto economico italiano. Quindi in prima battuta, come hai recita anche il nostro slogan, la nuvola italiana è l'unico cloud con la rete dentro, ovvero prima ho sentito parlare di non si sa bene dove sono i dati. Con l'offerta di Telecom Italia diciamo che c'è un elemento distintivo che permette anche appunto di assicurare massimi livelli di servizio, ovvero che i dati sono presso i data center qua in Italia, raggiungibili nella fattispecie con ogni tipo di connettività, ma in particolar modo ove la connettività è proprio quella di Telecom Italia, diciamo che il controllo di tutto il servizio end-to-end, quindi dalla postazione del cliente sino ai dati che risiedono nei nostri data center, è interamente sotto il nostro controllo e quindi siamo in grado, in caso di qualunque malfunzionamento, di intervenire in maniera molto solerte e precisa. Diciamo che in questo caso la colpa ce l'avete voi a 360 gradi, perché tutta la catena... Speriamo che non mi meriti. Beh certo, però sa che... Però ecco, questo è un elemento, a mio modo di vedere, molto importante, perché in particolare quando un'applicazione in the cloud, diciamo, quindi nella nuvola, non è raggiungibile, tipicamente il cliente, sia esso un'impresa o un consumatore finale, si trova nell'imbarazzo di non capire se è la connettività come dire, in quel momento sotto Difetto. Edmondo, volevi aggiungere qualche cosa? Sì, c'è un aspetto importante a questo proposito. Quando parlavamo di dati nella nuvola che non si sa bene dove siano, in realtà la vicinanza geografica poi all'utente finale ha la sua importanza. Per quanto i dati siano nella nuvola, la velocità di propagazione del segnale nel rame richiede un certo tempo. Quindi se i miei server, i miei dati stanno in Australia e io sono in Italia e ci devo accedere, latenze, interconnessioni eccetera poi giocano un ruolo sulla qualità del servizio. Quindi questo è visto da chi fornisce connettività internet. Il cloud è anche un modo per fornire servizi a valore aggiunto, perché l'integrazione del cloud per l'efficienza con l'infrastruttura di rete ha un'importanza non trascurabile. Sì, e tra l'altro questo potremmo dire è uno dei motivi per cui abbiamo bisogno di un'infrastruttura internet che funzioni, quindi pensando al futuro la fibra ottica, visto che c'è un dibattito molto acceso. Non solo fibra ottica, ma diciamo abbiamo bisogno di un'infrastruttura di rete che abbia la capacità fino al singolo utente di consentire questo nuovo modello di utilizzo, e in questo caso il modello di utilizzo non è quello a cui siamo magari stati abituati all'inizio di internet, quando internet è diventato un fenomeno di massa. Non è solo navigare, scaricare dati principalmente in una sola direzione, significa interagire e avere reti molto più capaci. Sì. Trovati, adesso l'abbiamo recuperata, ci sente bene? Sì, anche prima in realtà. Adesso noi la sentiamo un po' meglio. Dunque, ci faccia capire, secondo voi il cloud computing è una rivoluzione soprattutto per le grandi aziende, le piccole o le medie aziende? Lasciamo perdere i consumatori per il momento. Ma credo che l'impatto possa essere molto positivo su tutta la filiera del tessuto economico italiano. Credo però che nel mondo della piccola e media impresa il poter avere accesso senza investimenti significativi, perché ricordo che tutti i servizi di cloud computing tipicamente vengono forniti con un canone mensile, quindi senza la necessità di avere grossi investimenti si possono avere servizi eccellenti o infrastrutture eccellenti al proprio servizio, e quindi credo che in particolare la piccola e media impresa, che non è dotata di ampissima capacità di finanziamento, possa meglio beneficiare di queste tecnologie. Un tema in particolare anche in relazione alla bontà degli investimenti fatti. Faccio un piccolo aneddoto con i servizi appunto di Telecom Italia, nella fattispecie la suite ospita virtuale. Un cliente può appunto con un canone mensile assicurarsi un server o un server e una piattaforma di servizio, ma qualora la performance non sia eccellente, può in tempo reale modificare la configurazione del server, verificare se con la nuova configurazione le performance sono migliori, ad esempio aggiungendo memoria o una CPU, e solo quando verifica che la performance è ideale, confermando la configurazione, viene ad accadere il nuovo pagamento. Quindi questa flessibilità e adattabilità anche temporale delle esigenze dell'azienda è riscontrabile tipicamente solo nei servizi cloud, mentre quando uno compra un server fisico, quello è, e se l'acquisto per qualche motivo è sovra o sottodimensionato, diciamo che se ne pagano le conseguenze. Sì, è interessante quello che dice Trovati, ripeto, se uno lavora nel settore queste cose insomma le sente già da mesi o da anni, però è interessante perché vedete, uno può prendere un server che non sta in azienda e addirittura aggiungere CPU, quindi potenza di calcolo, uno potrebbe anche aggiungerla per una settimana, giusto? Esattamente. Quindi esattamente, il vantaggio è proprio che quando ci sono per esempio picchi di lavoro in un'azienda perché c'è bisogno tipo di Natale, maggiori, ad esempio, maggiori necessità, io posso espandere temporaneamente. E poi il vantaggio è anche il pagare a consumo. Trovati ci fa un esempio di servizi che possono essere utilizzati e soprattutto sono cose che può usare anche, che ne so, un idraulico che ha 5 dipendenti, un piccolo negozio, chi le può usare? Ma diciamo che a seconda del servizio tutti gli utenti business secondo me possono avere e trarre beneficio da questo tipo di servizi. Faccio un esempio semplice, avere un server a propria disposizione costa meno di 100 euro al mese, tipicamente con una configurazione già molto robusta. Avere una suite di collaborazione tipico per esempio, come aveva detto prima anche il collega di Google, per le forme di collaborazione tra microimprese che sono molto diffuse, costa poche decine di euro al mese, si possono condividere tutti i dati, quindi sono, come dire, servizi veramente alla portata di tutti. Maruzzi, per quanto riguarda l'offerta cloud di Google per il mondo delle aziende, quella quindi a pagamento, vorremmo sapere anche a che prezzo, che tipo di servizi vengono offerti? Voi date anche i server, no? No, questa parte è tutta schermata, cioè il consumatore o comunque l'azienda che intende beneficiare dei nostri servizi appunto ha accesso a un menu, a un'offerta di strumenti che spaziano dalla posta elettronica, il calendario, quelli che noi chiamiamo Google Docs, quindi le applicazioni di produttività tipica di Office Automation, Word Processing, Spreadsheet, cose di questo genere, e poi anche spazio extra per la costruzione di propri siti, storage di video e strumenti di messaggistica sicura. Tutto questo è l'insieme di software, di soluzioni che vengono fornite attraverso la nostra offerta Enterprise, e il costo di 40 euro all'anno a utente. Quindi per ogni postazione, scrivania? In realtà per ogni utente, a questo punto sai, non parlare più di postazione, di scrivania, perché lo stesso utente, come diceva prima giustamente Edmondo, si può collegare anche dal treno a questo punto, quindi continua a produrre e condividere documenti con n altre persone che stanno probabilmente distribuiti sul territorio. Per capire quanto dirompente può essere potenzialmente questa tecnologia se la utilizzassero molte più aziende, molti più utenti rispetto a quelli che la utilizzano oggi, possiamo fare un esempio o più di un esempio su, che ne so, un'azienda come potrebbe trasformarsi se domattina decidessero di buttare via tutti i server, tenere una connessione a internet e una serie di computer oppure una serie di tablet in giro per l'Italia o per il mondo. Maruzzi. Sì, guarda, lo scenario è che le applicazioni di produttività aziendale con cui siamo cresciuti negli ultimi 20 anni sono iper potenti, molto molto sofisticate, però spesso anche totalmente sottoutilizzate. Mi ricordo esperienza lavorativa di 7-8 anni fa, nell'ottica di lanciare una nuova versione abbiamo interrogato i nostri maggiori clienti chiedendo quali fossero le nuove features che volevano nella nuova versione del prodotto. Nell'85% dei casi erano tutte feature già esistenti, quindi per darti un'idea di ricchezza delle applicazioni, ma ancora una volta utilizzo sottodimensionato rispetto alle potenzialità. Quindi un primo messaggio è la semplicità, e spesso e volentieri con soluzioni semplici e flessibili si riescono a ottenere dei risultati significativi. È stato già citato total cost of ownership indirettamente, il fatto anche che inizialmente c'è un investimento in capitale molto molto basso, perché si tratta appunto di sottoscrivere un noleggio, e poi anche la scalabilità nel tempo, che è un altro elemento assolutamente a vantaggio di chi si deve avventurare, soprattutto in una nuova impresa una nuova impresa, una nuova attività. Per le grosse aziende il vantaggio è proprio la riduzione dei costi e ancora una volta l'implementazione di un modello lavorativo che prevede e implementa la flessibilità. 2024. Riprende 2024, questa è la nostra ultima parte, le 16:32 minuti. Stiamo parlando di cloud computing, non è solo una moda ma una opportunità molto interessante. Probabilmente noi utilizziamo già oggi tanti servizi che non lo sappiamo ma sono erogati grazie a piattaforme di cloud computing. Mi piace fare degli esempi per capire come poi la tecnologia può essere utilizzata nel concreto e nella vita e nel lavoro di tutti i giorni. Allora vorrei chiedere a Edmondo Orlotti, abbiamo parlato mentre andava la pubblicità di, partendo dal basso, uno studio professionale ad esempio, cosa potrebbe fare, cioè come potrebbe cambiare utilizzando le cose messe a disposizione dal cloud computing? Ma prendiamo appunto uno studio professionale come esempio. Solitamente il professionista lavora su dei file da solo, magari file che condivide con le persone del suo studio o colleghi di altri studi. Realtà che capita a molti di vedere sono uno studio professionale che ha il suo server nello studio, quindi solitamente in gli studi professionali non hanno dei data center, quindi non hanno locali condizionati, e a me più di una volta è capitato di vedere il server nello sgabuzzino dello studio professionale. Quindi c'è questo server che ogni tanto si rompe, c'è una ditta esterna a cui bisogna affidare il backup dei dati, però è al di fuori diciamo della conoscenza del professionista, che è concentrato nel suo settore. E giustamente deve fare altro, certo. Deve fare il suo mestiere. E questo mi è capitato appunto direttamente di vedere nel momento in cui i dati e le applicazioni sono stati portati nel cloud. Anzitutto si è risparmiata la corrente all'interno dello studio professionale, perché si è tolto il server. E poi con diciamo le opportune accortezze il professionista si è concentrato e ha immediatamente ha avuto un ampliamento delle proprie capacità professionali, perché ha cominciato a potersi collegare ai suoi file, a vedere anche semplicemente i suoi fax direttamente sul suo smartphone, piuttosto che i suoi documenti, a poterli condividere da qualsiasi terminale. L'aspetto di non dover più installare le applicazioni con tutto il tempo che richiedono e le capacità che richiedono per questo tipo di categoria professionale è particolarmente importante. Cioè, io non ho più la complessità tecnologica. C'è un detto che dice che la tecnologia bella è quella che non si vede. Sì, certo. E questo va in questa direzione. Poi facciamo un altro esempio. Sentiamo Fabio che ci telefona da Roma. Buongiorno Fabio. Buonasera grande Enrico. Senti, perdonami, potrei fare una puntualizzazione? Certamente. Allora, il discorso che volevo fare era questo. Abbiamo toccato un po' tutti gli aspetti, diciamo, del cloud, no? Questo in molte trasmissioni. Allora, l'aspetto che io vorrei un attimino mettere a fuoco è questo. E per quanto riguarda il discorso sicurezza del cloud, esistono strumenti che ci mettono a riparo da Trojan, malware, virus e altri agenti di questo tipo? Cioè, strumenti di protezione tipo antivirus, firewall e via dicendo? Era questa la domanda, diciamo, che volevo porvi. Grazie Fabio. Grazie Enrico. La domanda è molto chiara, anzi è puntuale, perché quello della sicurezza è un altro tema importante. Quando abbiamo parlato per organizzare questa puntata, ad un certo punto io ho detto: guarda, sulla sicurezza dovremmo organizzare una singola puntata, anche se poi le cose si complicano. Io vi do una risposta molto semplice, poi chiediamo sia a Trovati, a Maruzzi e anche a Orlotti. Sicuramente è meno sicuro il computer che abbiamo nel nostro ufficio, se parliamo di un professionista di una piccola azienda, rispetto ad un sistema gigantesco che viene fornito anche grazie sulla base di accordi firmati. Però questa è una risposta forse troppo semplice. Enrico Trovati di Telecom Italia, sulla sicurezza in generale. Ma direi che la componente di sicurezza è vitale e come si dice, tipicamente tutte le infrastrutture di cloud computing mettono tutti i temi di firewalling, antivirus e altre tecnologie come elemento fondante di tutta la propria offerta. Credo che ci sia un aspetto serio da sottolineare, ovvero che così come si può guastare un server presso la sede appunto del cliente, l'esempio che si faceva prima, questo può capitare anche quando si portano le applicazioni in the cloud. Il tema però che voglio sottolineare è che molto a proprio a livello di service level agreement che abbiamo citato prima, o comunque di difettosità media, tipicamente i data center hanno delle prestazioni, come diceva anche lei, eccezionali, molto superiori a quelli che sono i server presso la sede del cliente, e tipicamente l'eventuale problema di sicurezza può derivare proprio dal tema della connettività, che magari, voglio dire, ha un problema specifico, non so, perché una benna di una scavatrice trancia il cavo, ma con le tecnologie diciamo di oggi il fatto di avere l'applicazione in the cloud, come si dice, raggiungibile anche attraverso connettività mobili o altre sedi è una cosa molto importante e garantisce, diciamo, la massima sicurezza. Aggiungo una piccola cosa, se posso, sì, relativamente all'esempio che si era fatto prima dello studio professionale. La cosa molto secondo me importante, e per quanto banale, è che qualora, cioè tipicamente lo studio professionale non ha know-how tecnologico, abbiamo detto, e il server nello sgabuzzino, diciamo che è un obbrobrio per chi si occupa di queste cose, ma è la normalità dei giorni quotidiani. Tipicamente il vantaggio che si riesce ad avere con l'installazione di cloud computing, quindi portando il server nella nuvola, è il fatto che il proprio fiduciario di information technology, quindi il tecnico che si conosce, che sarebbe venuto presso il nostro ufficio o studio professionale a riparare il server o a vedere cosa c'è che non va, in realtà quando il server è nella nuvola può dalla propria sede verificare il funzionamento, interagire nella fattispecie con i tecnici di Telecom Italia per riconfigurare il server, fare tutto quello che serve, e quindi il vantaggio è duplice per lo studio professionale, ma anche per tutti i professionisti del mondo IT che sostengono le piccole e medie imprese nell'avere a disposizione di queste tecnologie. Maruzzi, vuole aggiungere qualche cosa? Sì, al volo. Per quanto riguarda la nostra suite di servizi, offriamo integrato, sempre al prezzo che dicevamo prima di 40 euro, soluzioni di antivirus e anti-spam. E faccio un paio di citazioni di certificazioni che abbiamo ottenuto, non è che mi dicano moltissimo, sono delle sigle SSAE 16, la nuova versione internazionale ISA 3402, magari qualche esperto stimolo della fantasia, sì, esatto, sì. Non è il mio caso. Comunque l'aspetto importante è che sono degli standard, per cui dicono che Google Apps, l'insieme della nostra suite, è conforme a tutti gli aspetti di sicurezza per quanto riguarda sicurezza logica, misure per la riservatezza dei dati, sicurezza fisica dei data center, dell'elaborazione dei dati, gestione incidenti e quant'altro. Adesso vorrei sentire Marco, che ci chiama dalla provincia di Trento, poi andiamo da Raffaele. Marco, sempre sulla sicurezza dei dati mi sembra tu voglia intervenire. Sì, io sono buongiorno. Un ricercatore informatico, mi occupo del web dei dati e sono un entusiasta utilizzatore delle applicazioni Google da tanto tempo in tutti i sensi, però io lo faccio con un po' di spensieratezza, nel senso che ho sempre il dubbio, visto che i dati non li sto codificando io, non li sto cifrando, crittografando io, che Google o chi gestisce il cloud sia gentile in tratti i miei dati in una maniera consona. Io non ho niente di non ho grosse mole di dati per ora, o dati non molto sensibili, per cui dico ma che ci facciano quello che vogliono, eventualmente, per cui lo uso con leggerezza. Però immagino che potrebbe essere un problema, visto che non sono io che mi occupo di codificarli prima di mandarli a loro, ma loro vedono in chiaro, i miei dati li faccio usare liberamente, insomma. Chiaro, tu dici, se i dati ce li ho in casa mia, so, a parte che non è neanche vero, che sono sicuro che nessuno li tocchi, perché una volta che un computer è collegato a internet molte cose possono accadere, però tu dici, chi mi garantisce che non succeda nulla sostanzialmente? Si rompano, non che si rompano, ma che non ci facciano altro, che non li usino per fare altro. Allora, penso che Maruzzi non ci dica che li utilizzino per fare altro, Maruzzi. No, anche perché sennò la nostra direzione PR credo che mi ammazzerebbe all'istante. Sì. Ma non è così, la realtà delle cose è così, e credo che ma sia abbastanza logico perché se vogliamo fare un business e fornire un servizio agli individui o alle aziende dobbiamo ovviamente seguire un codice comportamentale, un codice etico che non solo faccia sì che i dati siano conservati e quindi accessibili in qualsiasi condizione e con appunto ancora una volta un SLA sufficientemente alto da trasferire sicurezza ai nostri interlocutori, ma ci deve essere anche una sicurezza ovviamente sul contenuto e ovviamente non facciamo in nessun modo accesso alle informazioni, perché questo è anche uno degli aspetti che viene sollevato e indicato in maniera molto chiara nei termini di contratto con cui forniamo questi servizi, ancora una volta ai singoli gratuitamente oppure alle organizzazioni a pagamento. Sì, questo diciamo per la parte business a pagamento, cioè se io da libero cittadino non pagando gratuitamente faccio un foglio di scrivo sulla vostra offerta di documents, di documenti, voi utilizzate quelle parole in forma anonima, infatti io non mi preoccupo più di tanto, per metterci pubblicità a fianco, giusto? E non sui documenti, quello non sui documenti, succede soltanto su Gmail ed è un'applicazione che in background fa un lavoro assimilabile a quello che fa uno spell checker, quindi anche lo spell checker come fa il motore di ricerca più o meno. Sì, però se ci pensi ancora una volta da un punto di vista di privacy o di qualcuno che si intromette nelle mie cose, noi attribuiamo psicologicamente grande valore al correttore ortografico e non è nient'altro che un'applicazione di terze parti che legge quello che stai scrivendo e potrebbe essere la lettera banalissima ma anche un documento legale e con lo scopo ovviamente quello di segnalarti gli errori. C'è una terza parte che sta leggendo il tuo documento. Psicologicamente nessuno si è mai posto il problema e la logica di fondo è la stessa, ma non succede per i documenti nel caso di Google Docs. Raffaele dalla provincia di Oristano, buongiorno. Eccoci, buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione, vi seguo praticamente dagli inizi, da quando andava in onda la sera. Di sicurezza informatica avete già parlato e avete sviscerato l'argomento. Allora vorrei riporre l'accento sulla rete di trasporto. Come si sposa il cloud computing in un paese come l'Italia, dove le connessioni ad internet non sono sempre disponibili, soprattutto in mobilità, dove ci sono aree dove non sono proprio presenti, e anche dove ci sono parliamo di velocità irrisorie per un traffico praticamente costante che prevede il cloud computing. Sì, rischieremo di ritrovarci con un dispositivo assolutamente vuoto e quindi non solo di non poter comunicare ma anche di non poter accedere ai nostri dati. Per questo volevo il vostro parere. Grazie. Raffaele, però ti faccio una domanda io. Tu chiami hai fatto questa domanda perché abiti in una zona che non è molto connessa? Diciamo che nel mio piccolo paese in provincia di Oristano abbiamo la DSL da poco e comunque si va solo a 7 mega. Beh, in mobilità, però, se si va a 7 mega non è neanche male, se ci si va. Sì, appunto, se ci si va poi non si accede solo tramite Telecom, quindi siamo in shared access. In mobilità non ne parliamo, nel senso che qui dove sono io adesso l'OMTS non è disponibile, quindi al massimo vado in Edge o in GPRS. Sì. Chiarissimo, grazie Raffaele, buon ascolto. Giusto per non far credere a tutti che la situazione a Milano, nelle grandi città, Milano, quando si parla di Milano si parla di grande fibra ottica, sappiate che ci sono ampie zone o comunque molte abitazioni, la mia è una di quelle, che sono davanti alla fibra, perché sotto il mio palazzo passa la fibra, ma la fibra ottica non è collegata col palazzo, quindi anche nelle grandi città ci sono ancora dei seri problemi di digital divide. Adesso abbiamo il traffico, poi facciamo rispondere, o più che rispondere, solo una considerazione su questo punto, che è un punto molto importante, molto interessante, a Enrico Trovati di Telecom Italia. Ci sentiamo tra un minuto. 2024. Vi ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Abbonatevi gratuitamente, sottoscrivete appunto l'abbonamento a 2024 in modo molto semplice. Anche questo è un esempio di cloud computing, perché si preleva qualche cosa, o meglio, lo si preleva, poi lo si mette sul proprio computer, ma lo si può anche ascoltare semplicemente dalla rete, in the cloud. Un altro ascoltatore, tra gli altri, ci propone appunto questo tema del fatto che se, ad esempio, non abbiamo il collegamento ad internet, tutto ciò che abbiamo in the cloud non è raggiungibile. Effettivamente questo è può essere uno dei problemi. Enrico Trovati, bisognerà forse ricercare, ma immagino che voi l'abbiate fatto, un un bilanciamento tra i vantaggi che ci sono nel cloud di cui abbiamo parlato e i possibili problemi, cioè ad esempio se una mattina ho il collegamento a internet che non funziona, questo è un problema. Non c'è dubbio, io credo che appunto i vantaggi del cloud siano strutturali, ma vadano anche, come dire, presi con un minimo di consapevolezza e di maturità. Il fatto, abbiamo citato prima del pregio, dei diversi pregi di costo, di scalabilità degli investimenti, di ubiquità del raggiungimento dei dati. Questi vantaggi appunto sono sicuramente, come dire, controbilanciati dalla possibile irraggiungibilità di questi dati nel caso in cui non si disponga di una connessione ad internet. Credo che in questo senso ci siano tipologie di applicazioni o di componenti che meglio si prestano per essere messi nel cloud, anche a fronte di possibili disguidi, come si dice, di carattere di connettività, appunto di collegamento ad internet. Faccio ad esempio il backup dei dati è sicuramente per le medie aziende una criticità. Non c'è dubbio alcuno che un'applicazione cloud computing oggi abbia in questo tipo di applicazione i vantaggi strutturali che superano di gran lunga quelli che possono essere i possibili difetti. Idem direi sulle tematiche di mail server e quant'altro. Sicuramente non consiglierei a come dire, un'azienda in zona di scarsa connettività o senza procurarsi una connettività di backup di avere il proprio ERP o il proprio CRM solamente in the cloud, perché il rischio di avere un blocco, come dire, dell'attività, certo, per mancata connettività sarebbe superiore probabilmente al beneficio di costo che uno andava a raggiungere. Esattamente, e questo, ma l'ho già detto ma lo ridico perché è importante, è uno dei motivi per cui abbiamo bisogno di un'infrastruttura, e per creare questa infrastruttura c'è necessità che tutti i protagonisti di questo settore molto complesso si mettono assieme, e la pubblica amministrazione, lo Stato e questo nuovo governo in particolare avrà un compito, cioè quello di costruire non solo una rete in fibra ottica per i prossimi anni, ma proprio un sistema che rispetti l'agenda digitale dell'Unione Europea. A proposito di agenda digitale, tra i capitoli, se andate sul sito internet della Commissione Europea, dell'Unione Europea, c'è proprio un capitolo dedicato al cloud computing dell'agenda digitale, e su questo la Commissione e tutte le varie entità europee dovranno intervenire, perché c'è un grande dibattito sulla sicurezza e soprattutto anche sul diverso modo di approccio degli europei e degli americani su questo settore. Potremmo fare 50 trasmissioni e non riuscire a completare il quadro, perché effettivamente è molto complesso. Lo scopo di oggi è quello di darvi qualche elemento. Leonardo da Latina, buongiorno. Salve, buonasera. Buonasera a tutti. Salve, Santo, io parlo da detto ai lavori, insomma, lavorando in una delle società abilitatrici di cloud computing. Però la faccia semplice, eh? Assolutamente sì. Volevo solamente porre un tema che la nostra società vede fondamentalmente, ovvero del fatto che comunque le grandi aziende hanno già investito molto in questi ultimi anni in sistemi operativi e abilitazione di servizi fondamentalmente interni, e quindi vediamo il cloud computing ancora come una tecnologia rivolta verso, diciamo, lo small medium market, verso i piccoli professionisti, oppure pensate che possa arrivare comunque il momento delle grandi aziende che decidessero, insomma, di passare a due spese OPEX invece che CAPEX? Chiaro, perché non so quanti poi uno va in giro per la strada e sa che CAPEX e OPEX che cosa sono. Però facciamo una considerazione, Edmondo, che poi è anche la considerazione conclusiva. C'è un tema che divide un po' il mondo delle piccole, medie e delle grandi aziende, pensando al cloud. Pensando al cloud come servizio, sì. Questo parlo per esperienza personale. La grande azienda è molto meno incline a lavorare sul cloud cosiddetto pubblico, cioè quello di un fornitore esterno all'azienda. Da parte delle tecnologie magari no, cioè significa che il cloud pubblico e il cloud privato a cui eventualmente la grande azienda è interessata possono condividere la stessa tecnologia. Quindi dal punto di vista tecnologico non ci sono problemi. È il tipo di servizio che è diverso. Esatto, cioè diciamo che la grande azienda, che ha forse anche molta più proprietà intellettuale da proteggere, è un po' più prudente rispetto a queste tecnologie. Esatto, non solo, ha anche un'infrastruttura interna che garantisce livelli di servizio più elevati perché hanno migliaia di dipendenti. Cioè, ce l'hanno in casa il cloud. Ce l'hanno in casa, quindi si tratta, su quell'infrastruttura che hanno in casa, di cominciare a lavorare con tecnologie cloud. Questo è quello che stiamo vedendo accadere. C'è poi anche l'aspetto diciamo non trascurabile del fatto che una grande azienda, come dicevi, con la propria proprietà intellettuale è molto meno incline ad andare all'esterno. Noi al contrario lavoriamo in situazioni in cui la grande azienda tiene i propri dati all'interno e fa lavorare le aziende esterne fornitrici, facendole collegare al proprio cloud interno, in maniera da non dover far uscire dall'azienda, dalla grande azienda, il proprio dato, neanche nei confronti di quel fornitore che magari deve costruire solo un componente. Certo, quindi è un po' l'inverso. È esattamente l'inverso. Però volevo fare un ultimo esempio in 30 secondi, perché è molto interessante, visto che abbiamo parlato anche di applicazioni. Ci sono delle aziende che in questa ottica cloud stanno cambiando anche l'utilizzo delle applicazioni e l'utilizzo delle licenze. Sì, solitamente pensiamo all'azienda manifatturiera che ha la sua licenza per i suoi software di analisi, calcolo strutturale, eccetera. Deve disegnare un pezzo. Costano centinaia di migliaia di euro o milioni. Costano molto. Ha un carico di lavoro per cui ha bisogno di lavorare di più su quegli applicativi. Quegli applicativi richiedono potenza di calcolo. Allora già oggi i fornitori di software possono fornire licenze temporanee e collegamenti temporanei, quindi cloud, attraverso cui la piccola azienda può rivolgersi all'esterno. In una prossima puntata dedicata al cloud, perché mi sa che, visto il numero di domande che sono arrivate, dovremo ridedicare puntate al cloud, parleremo anche dei videogiochi in the cloud. E arrivano anche quelli. Bene, io ringrazio Enrico Trovati, che è responsabile marketing business di Telecom Italia. A presto, buon lavoro, Trovati. Grazie mille, invito tutti ad andare sul sito Impresa Semplice, ove interessati alle soluzioni cloud per le piccole e medie imprese. Esatto, è anche un po' uno scopo della trasmissione, quello di cominciare a far sì che la gente si documenti, poi non è detto che debba scegliere per forza. Stefano Maruzzi, Country Manager di Google Italia, a presto. Ciao, a presto a tutti, grazie. A risentirci, e grazie anche a Edmondo Orlotti, che responsabile di un sacco di cose all'interno di Nvidia. Grazie, buon lavoro e anche buon viaggio, visto che spesso ti trovi in giro per il mondo, per l'Europa. Grazie, a presto. Bene, io ringrazio come sempre i nostri ascoltatori per l'attenzione che ci hanno dedicato. Noi torniamo la prossima settimana, sempre su Radio 24. Vi ricordo la possibilità di downloadare, di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione sul nostro sito internet. Partecipate anche al nostro sondaggio. Siete disposti a spendere grosso modo 500 euro per comprarvi il primo miglio di fibra ottica? Ne riparliamo anche la prossima settimana. Da Enrico Paglierini l'augurio di una buona giornata. 2024.